Non c'è mai mattino che mi possa svegliare come il tuo sorriso che mi sappia entrare, come un raggio di sole che mi possa offrire un bacciolo di rosa come il tuo buon cuore. Non c'è mai una stella che mi possa rapire come i tuoi begli occhi che mi fanno brillare sotto il guanto del cielo, e non c'è mai aquilone come le tue gambe che mi faccia sognare. Se vuoi che amore sia di la frase tua e l'ultimo abbraccio sia l'ultimo, voglio gridare il tuo nome con tutta la forza. Non c'è mai buon vino che mi possa stordire come la tua voce, non c'è scorzo limone così aspro e più dolce di quel tuo respiro, se deve essere amore che si sappia in giro. Se vuoi l'anima mia, apri il cuore.